questo. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Buongiorno e benvenuti alla puntata della domenica del nostro RadioTube, la puntata che il nostro Daniele Bellasio preferisce, la puntata sì, della settimana. Sì, perché mi fai conoscere delle star, dei personaggi interessanti, perché è la puntata della giornata vitale, è quella per cui voi potete comunque scriverci, certo, anche per il sabato, i nostri account di Twitter, @MartaCagnola, @DiBellasio, oppure potete usare l'hashtag, che resta lo stesso, anche domenicale, Cancelletto Radio Tube. Daniele, tu parli sempre di calcio, ma io so che la tua passione sportiva è un'altra, è anche un'altra. Sì, sì, è sì. Mi piace molto il ciclismo. Vengo anche un po' preso in giro. Sì. Perché il ciclismo è uno sport che è difficile dire mi piace il ciclismo, mm-hmm, e invece è un bellissimo sport. Perché è uno sport, intanto forse l'ultimo di squadra rimasto, anche se vince uno, mm-hmm, in realtà quell'uno non vince se tutta la squadra non lavora per lui. È uno sport molto tattico e in più è lo sport che ha più metafore con la vita, se ci pensiamo. A parte la fatica, ma anche le parole usate, la volata, le tappe, il traguardo, sono tutte anche metafore della vita. Anche alcune anche modi di dire, no? Hai voluto la bicicletta pedala, anche alcune canzoni hanno devo continuare? No, guarda, secondo me stai già entrando nell'argomento, ma io non vorrei entrare subito con dice il nostro ospite, che secondo me non molti entriamo ascoltatori hanno già capito, perché volevo entrare nell'argomento Giro d'Italia con un grande ciclista, con un video. Il Giro d'Italia è partito, questo ciclista in realtà invece è un ciclista della nostra immaginazione, perché era Raimondo Vianello che così interpretava il Giro d'Italia. Biroggi, mi sente? Sì, la sento. O che la vuole? Pensa che le forze la sosterranno fino all'arrivo? Insomma, glielo ho detto, io mi sento bene, ci provo. Bisogna vedere anche quelli dietro. Che vantaggio c'ho? Una trentina di secondi, Biroggi. O poini, chi c'è dietro? C'è un gruppetto di 4-5 corridori, sono precisamente Franz Verberg, De Vlaeminck, Lehmann, Van Springel, Blankaert, Van Witt, Van Breckel, Van Printen, Van Langen, Van Prinsen, De Witt, Schoenmaker, Van de Mink, Van de Bosch. Ma le assicuro che questo è il Giro d'Italia, sì. Beh, io tipo Biroccia questo Giro d'Italia. Gli olandesi, i belgi vanno forti. Solo perché all'epoca non c'erano ancora i video virali. Perché se no, altrimenti Vianello, questo sarebbe stato ancora. Allora, abbiamo parlato di canzoni, abbiamo parlato di Giro d'Italia, e beh, c'è una canzone che è tutta una metafora del ciclismo, non a caso è stata scelta dal Giro d'Italia come emblema. E noi che pensavamo che fosse una metafora politica. E invece non lo era, no? Chi o lo forse sa? Esatto, lo chiediamo allo straordinario Frankie iEnergy MC. Buonasera Francesco. Al telefono. Ce l'abbiamo. Ciao Marta, ciao Daniele. Sì, sì, ci sono, è vero, è vero. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Tra l'altro ti chiedo subito, a Sanremo avevi perso l'MC, eri solo Frankie Energy, adesso com'è la situazione? Ti chiamiamo intero? Sono sempre stato MC, credo che sia stato, diciamo, tagliato per questioni di semplicità comunicativa dei titolisti. Sì, perché se era troppo lungo, poi magari il signore sì a casa non capivano. Allora, la canzone di Sanremo che vive una seconda giovinezza sportivo/televisiva con il Giro d'Italia. Era una canzone significativa, con un sacco di riferimenti, appunto, alla vita. Daniele diceva il ciclismo come anche il video, peraltro, sì, anche il video della canzone, così. Sì, come grande metafora della vita. È un po' su quello tu hai giocato quel testo. Sì, non essendo un appassionato di ciclismo in generale, e un utilizzo la bicicletta come veicolo per spostarmi da un luogo a un altro, in città è comodo, o ogni tanto per fare delle passeggiate, quindi non posso neanche essere definito un cicloamatore. Però sono d'accordo con l'introduzione che ha fatto Daniele, è veramente uno sport che riesce a incarnare tanti aspetti, soprattutto della nostra nazione, della nostra cultura, è riuscito a riunire la nazione in momenti di grande difficoltà nel dopoguerra, il molto meglio di qualunque altro progetto politico o quant'altro, e di qui la valenza politica anche chiaramente del ciclismo, che adesso è uno sport bistrattato, nonostante sia così amato, però senz'altro affascinante, coinvolgente, e sono sinceramente curioso di poter guardare meglio, avendo la fortuna di avere degli interlocutori di grandissimo livello come i giornalisti della RAI, poter guardare questo Giro d'Italia capendo e apprezzando ancora meglio questo sport. Scriviamo la nostra storia usando biciclette, inseguendo la memoria su strade molto strette, su per le salite senza avere una borraccia, giù per le discese con il vento sulla faccia, perché la bicicletta non importa dove porti, è tutto un equilibrio di periodi e di rapporti, è tutta una questione di catene e di corone, di grasso che lubrifica la vita alle persone, come nella vita c'è una ruota che gira, una ruota che spinge con quest'aria che tira, se una ruota si fora la caduta è sicura, una toppa ripara, una ferita si cura, non avere paura che se no ti deconcentri, devi far coincidere i pesi e baricentri, l'impegno d'una coppia per un singolo momento, due le forze in gioco, un solo movimento, pedala, insegui la tua storia ovunque vada, pedala, macina chilometri di strada, pedala, l'hai voluta tu la bicicletta, pedala, più in fretta, pedala, più in fretta, pedala, insegui la tua storia ovunque vada, pedala, macina chilometri di strada, pedala, l'hai voluta tu la bicicletta, pedala, più in fretta, pedala, più in fretta. Daniele ha lanciato questa cosa della metafora politica, perché effettivamente nel testo è mansione del pignone fare la rivoluzione, portare il movimento in ogni direzione, eccetera eccetera, c'è un sottotesto anche politico, insomma, nel senso più ampio del termine. Ma gli aspetti che la nomenclatura e la meccanica della bicicletta e la fisica che sottende il gesto del pedalare hanno delle definizioni che si abbinano meravigliosamente all'analisi di quella che è la società e quindi è politica di fatto, visto che il soggetto di cui parlo, il pedalatore, è esattamente il più importante e grande soggetto politico che abbiamo in Italia, che siamo noi italiani, cioè il popolo fondamentalmente sovrano e pedalatore, alle volte messo a pedalare sui rulli senza che se ne accorga, così intanto fatica ma non va da nessuna parte. Francesco, noi ci ritroviamo proprio tra qualche istante perché abbiamo gli aggiornamenti del traffico, non per chi va in bicicletta, perché di solito servono a chi va in macchina, ma veramente tra qualche istante noi ci ritroviamo, anche perché voglio parlare del nuovo singolo ma anche del tuo rapporto con la rete, che è particolarmente significativo secondo sì, me sì, Frankie bravo. IEN Agency è l'artista italiano più bravo a usare la rete, io adesso lo dico. Concordo. Poi spieghiamo anche perché. YouTube. È partito il Giro d'Italia, io l'ho detto, io tifo per Birocci, chi ci ha sentito sa chi è il ciclista Birocci. Abbiamo parlato e ascoltato Pedala di Frankie IEN Agency, che è ancora con noi. Buongiorno Frankie, buongiorno Francesco, insomma, come ti chiamano? Ti chiamano Frankie anche in famiglia, gli amici o sei? No, qualcuno. Sì, però insomma. Da tempi non sospetti, ecco. Prima che fosse un nickname. Sì, no, prima no, era già un nickname, però ancora non era così di pubblico dominio, ecco. Ero Frankie per pochi. Allora, seconda giovinezza per Pedala, che è stata a Sanremo, insomma, in un mondo che prende e consuma e getta i singoli, visto che ormai sembra che i ragazzi non siano più abituati ad ascoltare gli album, è anche una bella opportunità per farla risentire, però adesso è il momento dell'ovvio. L'ovvio fin da subito, prima di ogni cosa, ovvio come i fiocchi, ovvio come il rosa, ovvio come le allusioni erotiche, ovvio quanto il nome con le consonanti esotiche, ovvio che sai già che nella vita sarai madre di maschi, sposa di maschi, amante di maschi, comunque sarai sempre raccontata da maschi con meno fantasia dei pastori tedeschi. L'ovvio, sempre l'ovvio, fondamentalmente l'ovvio, la fuga da ogni dubbio, dentro le canzoni ti sussurrano l'ovvio, ti danno le istruzioni per vestire il tuo doppio. Ti dicono le marche, ti elencano i modelli, così vuoi sempre quelli, perché sono i più belli. Ti dicono per sempre, ma intendono per ora. Ti dicono l'ovvio di quell'ovvio che innamora. Ridi se ti dicono l'ovvio, tremi le emozioni se ti dicono l'ovvio, il cuore batte forte se ti dicono l'ovvio, questo perché baby I love you, baby I love you. Cos'è l'ovvio, Frankie? Allora, l'ovvio è il titolo di una mia canzone che ho scritto pensando a come oggi normalmente sia sempre più frequente, sempre più appunto normale che le donne, soprattutto le giovani donne, le ragazze, si convincano del fatto che la vera emancipazione, la vera realizzazione la si raggiunge incarnando esattamente quel ideale maschile maschilista che vuole delle bambole di carne super efficienti e aggrappate con massima volontà a una borsa di uno stilista della pelletteria e cose del genere, svuotando in realtà quello che è il contenuto di voi donne, che siete per l'appunto voi donne, con la vostra femminilità, i vostri dubbi, il vostro essere umano, intendo, no? E ho scritto questa canzone con un ritornello che incoraggia, che evidenzia come il oggi sia assolutamente utilizzata l'ovvietà per stupire, l'ovvietà per fare innamorare. C'è una cosa che tu dici nell'ovvio che si riferisce appunto a questo problema del femminile, ma secondo me può riportare un po' alla realtà in generale, e così arriviamo anche al discorso della rete. Elimini il contraddittorio solo col volume, un'opinione vale solamente se è comune. Si urla tanto adesso, e chi urla di più e chi è più arrogante, insomma, la sua opinione vale di più. Insomma, con la rete il tutto è ancora ulteriormente amplificato. Sì, e di amplificazione proprio si tratta, perché in materia di volume oggi si interpreta il diritto alla parola come un dovere alla parola. E non è sempre necessario dover dire la propria, specie quando semplicemente si apre una valvola di scarico e si butta fuori casualmente rancore, astio, gelosia, invidia, cioè proprio gli aspetti più abietti, non analizzando per esempio il testo di un articolo e dicendo la propria ragionando, anche in maniera dura, per carità. No, cioè si legge l'intestazione sulla base del titolo, si produce un giudizio che è semplicemente, non è un giudizio, è dichiarare quello che si pensa su quelle tre parole. E questo è affrettato e continuo ribadire. Cose peraltro sentite dire, già dette, cioè leggo su dei forum in questi giorni, c'è stata questa cosa della partita, pare che non si parli d'altro, pare che insomma oramai un capo ultras sia diventato un opinion leader per la nazione e non solo per la propria curva, quantomeno. E uno diceva, pare che la vedova Raciti, se non sbaglio, sia una senatrice del PD. No, non è una senatrice del PD, però basta andare su Google, cioè prima di scriverlo fai un minuto su Google, ti levi il dubbio e eviti di dire una sciocchezza. Però c'è bisogno di dover ribadire le proprie approssimazioni per annegarle in mezzo alle approssimazioni di tutti, in fondo, perché con la logica del mal comune mezzo gaudio tutti inseguono il mezzo gaudio causandosi il mal comune. Abbiamo detto che Frankie è bravo con la rete, i social, scrive, racconta, soprattutto perché è molto sincero e anche perché ha capito che quelle che sembrano le debolezze della rete possono essere trasformate in positivo. Per esempio, hai messo tutto l'album su YouTube tu, dicendo tanto qualcun altro l'avrebbe fatto, allora a questo punto io ve lo faccio conoscere. Poi in un'intervista all'Unità hai detto: acquistare un prodotto culturale è un'azione politica, io ve lo faccio conoscere, voi andate a comprarlo se vi piace, non siete obbligati, magari lo comprate e lo regalate a qualcuno, però è la maniera migliore per poter testare il Steam a un artista per un progetto di cui io sono semplicemente la parte emersa, perché insomma ci sono decine di persone che hanno fatto quel disco e lo hanno reso possibile e lo rendono possibile di continuo. Persone che lavorano, che hanno la famiglia, che hanno i figli, quella roba lì, insomma. Essendo io imprenditore di me stesso quest'anno, avendo deciso con la mia etichetta di autoprodurre questo disco e di andare a Sanremo con le mie gambe e di agire appunto imprenditorialmente sul mercato, ho pensato che sia necessario un atto di fiducia nei confronti del pubblico, che da decenni ormai è considerato un criminale, un pirata che necessariamente utilizza dei CD vergini per registrarci sopra della musica, e quindi bisogna gravarli di una specie di imposta. E la stessa cosa fa sì che il costo dei CD fosse elevato perché doveva ricompensare tutti quelli che sono copiati. Insomma, è brutto. E quando tu consideri un popolo di consumatori dei delinquenti e li tratti come tali, molti di loro possono essere assolutamente diventare inclini a delinquere. Secondo me invece bisogna fare il passo indietro, bisogna dire: ragazzi, la musica è questa, è inutile che ce la stiamo a raccontare, se vi piace per favore compratela, costa il CD costa quanto 3 birre medie, però non diventa perdonate il francese, non diventa una pipì dopo 3 ore. C'è un'altra frase carina in quell'intervista, che è anche un hashtag: rimpiango i cortili. Rimpiango i cortili è bellissimo, no? Anche perché poi Franky è maestro di hashtag. Infatti Essere Umani, che è il titolo del film, era stato anche un'operazione che tu hai lanciato con un hashtag, ma anche su Instagram con delle fotografie. È stato un esperimento molto bello, cioè alla fine la rete ti permette di usare, di scrivere, di fotografare, di fare tante cose. Non solo, permette di avere una intuizione. E dal momento in cui hai quell'idea alla fase di distribuzione di quell'idea al pubblico passano 10 minuti, un quarto d'ora. Esatto. Cioè, ma è una roba pazzesca l'idea che io adesso possa scattare una foto, elaborarla e farla vedere a centinaia di migliaia di persone, perché ho la fortuna di avere un seguito molto grande nei social network. E divertente il fatto che il social network nel quale ho il maggior numero di followers è Tumblr. Certo, ne parliamo sempre poco, perché Tumblr sembra quasi più sotterraneo, fa meno notizia. Io non ci sono. In realtà è molto diffuso soprattutto all'estero, e su Tumblr io posto quasi esclusivamente mie immagini, mie fotografie, e dei 240.000 follower che ho, alcuni sono italiani, ma la stragrande maggioranza sono stranieri che si sono appassionati alle mie fotografie. E quindi è divertente vedere come attraverso un circuito che fruisce della fotografia non come Instagram, non come Flickr, che ognuno ha le proprie nicchie, le proprie maniere di comunicare, di divulgarsi. Tumblr è molto più terra-terra, è molto più scambiarsi le figurine, con la sola differenza che io posso prendere la tua figurina, ma non è che te la levo, ne pigli una copia, e questo è bello e divertente, ed è una delle maniere gioiose, secondo me, di far comunicazione sulla rete. Saperlo e imparare a usarlo è divertente, è utile, io ci sto lavorando da un po' e sono contento che me ne siate accorti, grazie. No, devo dire che io mi sono accorta in questo momento che tipo sono 4 anni che non tocco il mio Tumblr, che aveva anche un titolo carino. Però in compenso fatto tutti gli aggiornamenti, non ci sono più puntini rossi. Non ho più puntini rossi sull'iPad, sì, che ti facevano arrabbiare. E io sono stata molto molto molto contenta di avere Franky, Energy MC, tutto giusto, diciamolo tutto giusto e lungo, perché a Sanremo l'avevano tagliato. Franky, Energy MC, perché era diventato corto. Ricordiamo anche Franky.tv, poi il Essere Umani con l'hashtag Essere Umani è. Grazie per essere stato con noi. Insomma, pedaliamo per tutto questo giro d'Italia. Grazie ragazzi. Grazie. Ciao. Francesco, a presto. Grazie di essere stato con noi. Ciao. Che meraviglia, Daniele. Come passa il tempo quando si pedala. Quando si pedala. Vabbè, insomma, siamo in forma per questa domenica. A me, siamo in forma? Franky High Energy piace, lo dico un sacco. Piace un sacco, questo disco è davvero bello. E Passiamo, andiamo a pedalare domenica. Pedaliamo pomeriggio domenica, e ci ritroviamo sabato prossimo ancora. Dove con vai? Radio Tube. A Copenaghen pedalano tanto. A Copenaghen pedalano tantissimo. Ne parleremo. Ne parleremo. Ne parleremo la prossima settimana. Grazie a Valeria Bernardi in regia. Daniele, ci ritroviamo sabato prossimo con Radio Tube. Forse sì, forse vengo. Alle 18 forse vieni, ma io ti aspetto. Alla prossima settimana.